Poco fa ha chiamato Renata Polverini per farle auguri e i complimenti e auguri di buon lavoro. E sono contenta di aver ricevuto altrettanti auguri di buon lavoro. Mi auguro che questo tema centrale che abbiamo posto, quello della legalità, quello dello Stato di diritto e quello del rispetto delle regole, sia un tema che rimanga nell'agenda politica come priorità di riscossa di questo Paese. Anzi, credo che gli episodi di quel che hanno contraddistinto questa campagna fino agli ultimi giorni, come tutti avrete potuto notare, impongono a questo Paese di riscoprire la legalità, il senso delle regole e delle istituzioni.